non c'è nessun mezzo per cambiarlo, per girarlo, addolcirlo. Oh Timone, Timone, e tu sei il più vecchio, tu sei anche stato podestà fuscetto. C'è una persona sola che ci può consigliare, forse salvare. Sì! Gianni Schicchi! Di Gianni Schicchi, se la figliuola non può sentirne parlar mai più, e intendi bene! Ecco chi viene! Sì! Gianni Schicchi! Chi l'ha chiamato? Io l'ho mandato perché speravo. Condonati sposare la figlia d'un villano. E tu sceso a Firenze dal contado. Imparentarsi con la gente nuova. Io non voglio Firenze, non voglio. Avete torto. Di leggi e pubblici conosce e sa, motteggiatore, beffeggiatore, c'è da fare una beffa nuova e rara, è Gianni Schicchi che la prepara. Gli occhi furbi illuminan di viso, strano viso, ombreggiato da quel suo gran nasone che pare un corracchione, per così vien dal contado, ebbene che vuol dire, basta con queste umbrie rette piccine.